vedo lì, ho cambiato scheda, non sono più dai cavoppi, adesso sono figli di puttana sono. Cosa è successo? Che ti avevo 12 euro di credito, ho finito 10 euro, sono mangiato tutti i soldi, sono mangiato. Infatti il tipo ha detto, non mi sembra strano, una cosa del genere non deve succedere, infatti ha detto. E allora cosa ho fatto? Dopo ho cambiato, sono passato a Penny Mobile, ho fatto 10 euro e mi hanno dato anche la promozione con quei soldi lì. Una scheda nuova. Io ce l'ho ancora, non me l'ha mai fatto a me, io ne metto 5 euro, li metto un mese, 10 euro l'altro, e va sempre alla grande, non me l'hanno mai fregato, strano Ma non è che magari non volendo hai attivato qualche cosa di musica o roba del genere, perché a me mi era successo, con Vodafone l'ho fatto togliere praticamente, perché ogni settimana mi mettevano una musica nuova per il telefono, capito? Ti sto dicendo, già, ti sto ancora detto, che ho finito i giga, ma l'ho detto anche loro, ci hanno mangiato il credito. Non lo so, a me, per me va benissimo questa qua, lo prende da tutte le parti, tranquilla, non so cosa dirti, magari è successo a te questa storia qua, poi se mi dovesse succedere lo cambio anche io. Come mai ti hai messo quella lì, non ti hai messo Vodafone di nuovo? Vodafone, ma comunque, qui sono peggio, sono peggiori solo. Peggiori, aspetta, io stacco qua. Ecco qua, perché non capivo come cazzo si faceva il passaggio da telefono a telefono, è diverso. No, a Vodafone, ma anche no. Anche no, Gianni. Cosa fai stasera? Già mi ha mandato un messaggio una amica, una mezzo parete, diciamo, da. E abbiamo una nipote in comune, mentre se scendevo in questo circolo che fanno karaoke, adesso mi faccio un salto, tanto già c'è la pappa pronta, lo faccio tardi però, lo faccio tardi, come si dice, e vado a fare un vincolo, prendo la bici un attimo, mi compro bene e vado. Tu non fai nulla già a casa? Io alle 8 devo andare a prendere a Elena, come faccio? Sono bloccato perché Elena sta lavorando e alle 8 devo andare a prenderla. Già capiterà che facciamo qualche cosa, non c'è problema. Senza dubbio, tranquillo. Ci organizziamo un giorno. Aspetta che ti racconto una cosa. Forza. Cappa. Se vuoi parlare non stai uscendo. Hola, attenzione canale 10, c'è qualcuno? Ciao già. Uè Gabi. Uè già, dammi 5 minuti adesso, ok? Va bene, sono qua. Buonasera Gianni, me la controllo per piacere, Chi è? La Nidu, per. Prova. 1, 2, 3, prova. Elga. Elga, vediamo se va bene. Sei 9,5 con picchi positivi. Ah però, mica male, Modulazione com'è Gianni? Già è buona, sì. Che appare che sei usato? È un 706 MK2, della Icom. Però mi dicono che è compressa come modulazione, che risulta questo? Prova! È 1, 2, 3, prova. Sto parlando piano, ma è al massimo e tu, chissà, vediamo un po' se funziona. No, io non la sento compressa per niente, la sento normale. Molto bene, allora ci vuole, è una di bande, mannaggia la miseria. E vabbè, perché non sono sui punti, mi dicono che sono presa. Comunque sì, sentite anche un pochettino, ma leggermente. Bene Gianni, anche tu arrivi bene, dai. Solitamente però ti sento molto più forte, è molto più carico. Ehi, sto facendo con 5 watt, capito? Ah, sei basso basso, diciamo. Ehi, ah sì sì. Guarda adesso. Voilà. E adesso è un altro mondo. Come era il segnale? 9. Segnale 9, radio 5, molto più potente. E poi io avevo dato un 8. Cioè non avevo l'amplificatore, diciamo che normalmente è di default, ma sarebbero 9.10, 9.20 circa. Kappa. Va bene, là. C'era anche Gabino di Porto Torres, ci ha detto che entrava fra 5 minuti, che entrava, forse è stato tornato dal lavoro e si sta cambiando, dai. Kappa, sicuramente. Sì, me l'ho sentito prima, eh. Ha detto che tra un poco ci metteva in radio. Bene, bene. Ottimo abbondante. Ora. La trentina, va. E domani devo scendere nella tua città. Devo scendere perché qua praticamente dove metto il gas per la macchina arriva lunedì, a me mi serve. E siccome lo metto solo in quel tipo di rifornitori lì, perché gli altri rifornitori usano gas sporco e non ne metto. Se lo metto a Portotorres, se lo metto a Canica io. Esatto, ma cos'è prima di entrare a Portotorres sulla sinistra che hai? Sì, quello di fronte al supermercato Lidl mi pare che sia. Per andare alla zona industriale. Esatto, quello lì è l'MD. Andando alla zona industriale, non è proprio la zona industriale ancora, eh? Sei quello che dico io, rimane sulla sinistra, no? Sì, per andare alla zona industriale ti ho detto, per andare la strada per andare alla zona industriale. Prima del ponte, dai, prima del ponte del Rio Mano. Sì, lo conosco bene. Conosco bene il distributore, ma io abito praticamente, oddio, in linea d'aria dietro, diciamo. Non sono pure di principale, quindi va bene. Invece di girare a sinistra, vai dritto, quella lì via Sassa, io sono lì. Sono verso quella zona lì. Kappa, bene bene, quindi ci abbiamo pulito sto ragazzo qua. Kappa. Gianni. Avanti. Buonasera Gianni. Allora. Ciao Gavi, adesso sei tornato al lavoro. Yes. Sì, già. E sono a pezzettini. Ieri fino a finito, ieri sera ho finito anche tardi. Lui ha una baita, non se ne può più. Non se ne può più. Ehi Gavi, adesso stacca la spina e rilassati. Ehi, rilassati. Come fai a rilassarti? Devi pensare a quello che devi fare domani mattina. Ci pensi domani mattina, giustamente. Eh sì. Buonasera, avanti. No, non ti ho riconosciuto. Buonasera, sì. Buonasera, Gavino. Mario, penso per essere. Ero qui a fare due chiacchiere nella tesa che tu entrassi con Gianni, eh. Comunque, mi faccio i miei saluti, rimango con ascolto perché stavo facendo una cosa che ho concluso e devo assolutamente finirla, quindi eventualmente rimango qua in QRX. Continuate pure questo. Gianni, grazie per i controlli, buona serata anche a te Gavino. E ci sentiamo eventualmente alle prossime. A te di nuovo Gavino. Sì Mario, buonasera, ti sento molto cupo, ti mancano molte altre frequenze, ti sento molto cupo. Lo so. l'apparato che è così, in genere, vabbè, non dovrebbe, ma il suo microfono è quasi originale, quindi insomma. E quindi appunto mi sta facendo dare un controllo da Gianni, ma evidentemente essendo più lontano non si accorge di questa cosa qui. E niente, non è il solito Caracchino, è l'Icom 706, però sì, vabbè, è un po' così, è un apparato che funziona in questo modo qua, ma adesso va bene, non c'è problema. Quando mi sono tirato voi prima usavo il Caracchino, proprio baracco, anche se erano 10 metri, però insomma, aveva più funzioni da Caracchino che da radio seria. Va bene, vi ringrazio comunque, te di nuovo Davino. Anche io sto usando un ICOM, un IC737, anche io sto usando un ICOM. prosegue, punto. Ci sentiamo alle prossime. Avanti Gianni. Ciao Mario, ci sentiamo, dai. Io qua ti sento bene, non posso dire il contrario, perché forse la lontananza, sai, è come il vento. No, a parte gli scherzi, ti sento abbastanza bene, probabilmente anche la ricezione, non lo so, la lontananza. Infatti, ma è così, più ci si allontana e più magari la modulazione risulta diversa. Magari da vicino è anche compressa o si occupa, però va bene, non c'è problema, le caratteristiche di questi apparati. Poi la M, diciamo che questi apparati non sono molto propensi a funzionare come un normale apparecchino da 27, quindi va bene. A te di nuovo Gianni, Gianni, sì, insomma, riprendete uno dei due, io rimango qua in 2RX, buona serata a tutti e due e anche gli ascoltatori, ciao ciao. Ciao di nuovo Mario, avanti Gavi. Sì, sì, ciao Mario, buona serata e buon tutto. No, vabbè, io te l'ho detto perché, sa, la correttezza è la cosa migliore. Però ti ascolto, ma. Beh già, allora, com'è? E allora, Gavi, e fra poco alle 7 devo andare a portare il cane giù e poi devo andare a prendere Elena, dai, al volo. Perché esce alle 8, alle 7 e mezza sono giù col cane, poi alle 8 attacco l'antenna, se c'è qualcuno, se come ieri che non c'era nessuno, la stacco di nuovo. Verso le 8 l'attacco perché poi devo andare fuori Sassari, dai. È positivo, e dopo anche io verso le 7 e mezzo devo uscire, devo andare a vedere un lavoro. Devo andare a vedere un lavoro perché dentro una curata a lavorare con i clienti, quindi devo andare a quell'ora. E vabbè, e vabbè. E capi, già c'è anche stanotte, dai, quando rientri, ce n'è gara. Oggi sono appetiti. Oggi sono proprio, guarda, sfinito. Lo so, purtroppo quando si lavora così a volte scendevo dalla macchina, Mario, un uncino, tutto druncato da dolori, oia. Sì, perché non ce la fa e poi non ce la fa neanche a mettere un passo qua, sono in cameretta adesso. E ciccia. E va bene. Non c'è nessuno già. No, sono dentro adesso, c'è la Lucca poco fa, ma sicuramente siccome deve uscire, starà preparando. Deve uscire stasera, deve andare in un circolo. E quindi ha detto che si preparava. Adesso non lo so se rientra, capì? È positivo. E Spalviero non si è più sentito. Non ho più sentito Claudio. Claudio, nemmeno io l'ho più sentito. Stasera c'erano dei bei contest sui 40 metri e contest del Presidente della Repubblica. Ma vai, belli sono quelli, belli. L'altro giorno ho seguito quello delle prefetture, nave da guerra e tutte queste cose. Bello, mi arrivavano tutti fortissimo mi arrivavano. Sempre sui 40 metri? Sì. Hai inteso che è molto Maurizio Costanzo? Ehi, faccia l'anima sua, già poverino, già una brava persona. Però già ci ha passato una vita di lusso, dai, una vita di lussi. Poi aveva, quando ne avevo 80, 85, 84, magari arrivarci 84 anni così. Aveva anche una donna giovane, che... Vabbè, ma commentiamola. Scappa. Maria De Filippo. Maria, butta la massa. Dice che lui russava e lei dormiva in un'altra camera perché lui russava di brutto. E lei dormiva in un'altra camera perché già usava. Ma cos'era? Un gruppo elettrogeno, prendo la buona. Già lo sta lì perché lo vive in un'altra camera già, no, non ti preoccupare. E vabbè, adesso c'è tutto in mano lì, non c'è più la... Diciamo che lui è stato una colonna per lì, ha fatto fare il successo. Eh beh, senza di lui lei non sarebbe stata così, fidati proprio di quello, guarda, le gli deve tutto, ma gli ha definito molto importante. Non è vero, è stata una colonna, sì. È stata una colonna. Dimmi, sì, bello. Ah, c'è cacciato. Cioè mia figlia giochi e gioca con i cacciavitini. Sparvie, ma che fine è fatto? Sparvie, aiuto, se l'ascolto, maledetto. E aspetta qui che il cacciavite non si può chiamare, capito? Eia. Sì, diciamo però che è già abbastanza umile, Maria De Filippi l'ha sempre detto, che lei se non fosse stato per Maurizio non avrebbe fatto nulla, non avrebbe fatto carriera così. Eh beh, certo. No, ma poi è una persona in gamba, Maria De Filippi, non c'è niente da dire. Come mi senti già con questa radio? Bene, Gabri, bene. Tranquillo, la voce naturale è tua. Io ti conosco in verticale, quindi la tua voce naturale, Gabri. Ok, perfetto. Ma l'importante è che sia comprensibile che passo il QRM, capito? Non se ne sente il QRM, è proprio nulla. Positivo. Niente, oggi ero... Oggi, guarda, stamattina come prima cosa mi è capitata una bella cucina, ma una cucina di quelle già, diciamo che i pensili non erano pesantissimi perché era in legno, una cucina sempre assino, bella, guarda. Secondo me quella cucina è il sogno di ogni donna, cioè il frassino laccato, ma anche diciamo tutta la struttura della cucina, perché in genere la fanno in truciolato, questa era tutta in legno, però aveva il top di 3 metri e altri 3 marmi di 2,50 m, non erano marmi, no, era trachite da 5 cm. Puoi capire, a quarto piano dalle scale. Ma le l'ha piazzate voi pure? Sì, viene un mobiliere con me che è molto bravo, viene un mobiliere, partita IFA e della piazza. Però, già, poi stasera guarda, un'altra cosa che è impossibile da descrivere, stasera abbiamo portato giù una cucina. Garage, smontato 3 camere da letto, un soggiorno, ripiazzato una camera da letto al piano di sopra e le altre tutte imballate, in celofanate e messe in garage perché devono partire a Roma. Allucinante. Ti sei dato da fare. Sì, quello che perdi tempo è imballare, capito, in celofanare tutto, cartone, pluripol, pellicola perché deve partire, poi qua si parla casotto. Lo so, Gabi, purtroppo lavoro, a dirlo sembra facile, a farlo e beh, poi quando c'hai mobili di un certo pregio, cioè tutta anche la camera da letto, anche la camera è tutta in ciliegio, ma roba che costa, tu dici sì, magari hai incassato, però capita. Anche io ce l'ho in ciliegio, la cameretta dei ragazzi ce l'avevo tutta in ciliegio, ce l'ho tuttora in ciliegio. C'è diciamo un armadio grandissimo tutto in ciliegio con due letti, poi c'è la scrivania in ciliegio, una colonna per mettere i libri, e tutto in ciliegio, la sala è noce, la cucina è non me lo ricordo che legno è, comunque è legno vero perché si vede il nodo, se c'è da una parte c'è anche dall'altra, non è finto. Sì, beh, quindi sai, quindi lo sai, il ciliegio è un materiale molto delicato, che se sbagli anche poggiando la terra quando la smonti, è un casotto, però non ne fanno più camere così, bella, prendevi i pannelli, guarda, ti dava senso di sicurezza. Tutti gli agganci ai mobili per accoppiare l'uno con l'altro. l'altro, tutti con i fermi in ciliegio e gli inserti, tutta la ferramenta in acciaio inossidabile, cioè proprio fatta senza risparmio. Sì. E adesso le laccano magari in ciliegio, ma prima già le facevano bene. E quella cameretta che c'ho costa quanto una macchina, capito? Quanto una macchina costa? Sì, questo perché chi mi ha chiamato a me è un poliziotto, o dice che 15 anni fa, no, cucina, la cucina 15 anni fa, la camera c'ha 23 anni fa, gli è costata 13 milioni, solo la camera. Sì, ci credo, perché anche noi l'abbiamo pagata un bel. Mia moglie era fissata che la voleva in ciliegio e l'abbiamo presa in ciliegio, però qualche parte ce l'ha sempre, la parte di dietro, diciamo il fondo non è in ciliegio, è sempre non trucciolare, però è un legno più leggero, capito? No, io per esempio la cucina che ho io è fatta da falegname, tutta in frassino, 9.000 euro, viene la cucina, 9.000 euro, diciamo la cameretta, la mia è laccata, cioè laccata, impellicciata, però la camera da letto è tutta quanta lo stesso, la camera da letto è tutta quanta fatta in noce, bella, sei anni fatta da falegname, però un occhio della testa costa, no? Tu dirai ti dura una vita, perché lo specchio invece di essere da 2 mm, lo specchio nostro è da 5, i mobili invece di essere da 0, da 1,2 sono fatti da 1,8, quindi diciamo sono camere fatte, sono mobili fatti con pezzini. No, ma questi qua sono assurdi, eh? A me i mobili belli piacciono, io sono un po' appassionato di mobili, però questi qua che ho smontato erano proprio belli. Cazzo, ma no, anche io ho dei mobili belli a casa. Abbiamo speso, però abbiamo mobili, cioè ho mobili belli. Poi vabbè, mia moglie se li ha ripresi nuovi, e niente, li ho presi io. Nuovi nell'altra casa dove abita lì, li ho comprati io e lei mi ha lasciato questi che c'erano, però stare a smontare, a far pagare il montaggio, il trasporto eccetera. Sì, fai prima perché tu pensa che un mobiliere al giorno vuole 350 euro, un mobiliere serio, non un ciarlatano. Quattro persone, più me, più il furgone, a te ci lucco. Sì, ma infatti, e poi i mobili smonta e rimonta, si rovinano, trasportarli, magari li battono, li fanno, invece qua c'era tutto quanto nuovo, capito? Era tutto nuovo qua perché li avevamo cambiati da poco, la camera da letto l'avevamo cambiata. L'unica cosa che erano cambiate è la cucina componibile, che ce l'ho tanti anni, una SIC, e ce l'ho tanti anni, però vabbè, fin là la cambierò anche quella, però tutti gli altri mobili li ho cambiati, non c'è più nulla di come era prima. Prima ce l'avevo bianca, quando mi sono sposato c'avevo i mobili della camera da letto bianchi, invece quelli della sala neri, tu dovevi vedere questa cristalliera con le luci all'interno, quando la accendevi cazzo si illuminavano tutti i bicchieri di cristallo, era troppo bella. E l'abbiamo data per una cazzata a Portobello, 1.500 euro l'abbiamo venduta. Qua la camera da letto bianca è bellissima, ma è bellissima veramente, a me piace, a me la camera da letto bianca sa di... è bello, bella, soprattutto una camera da letto, a me piace anche la camera da letto dove si vedono le venature, è proprio bella, bianca e assurda, da poco ho portato aveva quel color melenzana, era stupendo, ma proprio compensato Marino, guarda, perché poi quando togli le mensole, togli le cose che vai a imballarle, ti accorgi che non pesano niente, e anche la struttura fatta tutta in compensato Marino, bellissimo. Allora Gavi, io ti dico una cosa, i mobili li ho trasportati anch'io, e praticamente li prendevamo a Lucchi, non so se te lo ricordi prima, e li portavo io da tutte le parti, il Sorso, Porto Torre, cioè da tutte le parti, dove c'era da portare li portavo, oltre che fare il lavoro che facevo mi facevano portare anche i mobili, e mi mandavano da solo, capito? E dicevo, ma come faccio a scaricare da solo questa credenza? Ti fai aiutare da loro, e io dovevo chiedere alle persone di aiutarmi. Lui diceva, io ho pagato per portarli, sì, per portarli, ma non per scaricarli e montarli, e dovete pensarci voi, non vi siete messi d'accordo, e dice, vabbè, comunque gliela do io una mano, e me la davano, però sempre burroniere, capito? Io devo anche la faccia in terra. No, io c'ho ragazzi che vengono e sono dei muletti. Il 70% di quello che è lo devo a loro, perché sono delle persone serie che lavorano, tranquille, non educate, bravi ragazzi. È bello quando si va d'accordo lavorando, perché poi il lavoro ti viene più leggero, il brutto è quando stanno sempre a voci e questo e quell'altro, specialmente certi principali che stanno sempre a voci, come quello che dicevo io prima, che era sempre a voci con i baffi dritti e a voce. Ma assolutamente, guarda, non c'è stato motivo di dire nulla perché si fanno il suo, di dire nulla perché si fanno il suo, tranquilli, non... Quando si devono fermare si fermano, quando c'è da lavorare si lavora, quando c'è da ridere si ride, quando lo sanno loro, sono persone responsabili che sanno come è la vita del mondo del lavoro, capito? Non c'è bisogno di dire di niente, ma niente, ti capiscono il lavoro, prima di dirlo ce l'hai già, comunque c'è la vita, perché ti seguono sul lavoro, non c'è neanche bisogno di dirlo, te lo trovi già pronto 30 secondi prima. E così vogliono le persone, no? Gli dici che non comprendono nulla, gli dici portami questa chiave e te ne portano un'altra, lui ce ne sono gli dici drummiti. Vabbè, comunque, interessante che lo staff sia unito e che lavori omogeneamente, allora il lavoro diventa anche più leggero, perché se fa tutto uno poi alla fine ti stressa. Ma scherzi, se io la professionalità ce l'ho soprattutto grazie a loro, poi come per un mobiliere che è la fine del mondo, anche perché è un falegname, capito? Quindi non ci sono problemi, da fare una modifica pronta, la fa, ti fa il pezzo uguale, non, poi ti ripeto, io dei ragazzi che lavorano con me sono fenomenali, sono montagne, sono persone infinite che viaggiano, che sono instancabili, e quando c'è da prendere, da fermarsi, si fermano, nessuno gli dice niente, quando c'è da fumarsi la sigaretta, si fuma la sigaretta, quando c'è da trottare, trottano forte, e attinti. Imballando, diciamo, facendo imballi dei mobili, sono fenomenali, fenomenali. Ci credo, Gavi, ci credo. Vabbè, certo, così deve essere. Il principale deve anche capire le esigenze di chi lavora. E lui invece, se ti prendi, veniva mia sorella, si fermava 5 minuti per dirti una cosa, subito ti faceva gli occhiacci per continuare a lavorare, capito? Non fermarti. Ma scherzi, ma non esiste proprio. Non esiste proprio, perché sono persone queste qua che se ti chiedi di rimanere un'ora, proprio dicono pronti. Retribuita, però disponibile. infatti, raro. Oioi, lei ha trattato a me così già, oioi. Ma sono a conto loro questi qui o sono assunti da te? No, sono con me, non sono a conto loro, sono con me. Ah, ho capito. Ma questo qui fa legname a tempo perso lo fa? No, lui è un partitaio, fa legname. Però viene, quando lo chiamo viene e si fa i suoi lavori. Ah, ho capito. Vabbè. Persone serie bisogna trovare nel lavoro, capito? Se trovi persone serie lavori tranquillo. Se trovi persone che ti danno problemi, che si vuole in malattia, dice che dà, è un problema. Buonasera lì. Ciao Gianni, ciao Capino, ben ascoltati, vai Capì. Buonasera Mastro Giulio, ben sentito in compagnia di Gianni Dottor Room e Gavino, coordinate SP25 Sorso, avanti Giulio. Ok Gavino, mi ho appena acceso e vi ho trovato subito al volo. A dire la verità ero in un altro canale, ma ero solo in ascolto, non c'era nessuno in un altro canale. Sono passato qua e vi ho sentito e mi fa piacere ascoltarvi. Avanti Gianni. E io giusto per andare via, dai, perché devo portare giù il cane adesso, perché poi devo andare a prendere Elena al lavoro, dai. Ah, ho capito, e vabbè, gli impegni sono impegni, non c'è niente da fare, sono sicuramente più importanti del baracchino. Avanti Gabi. Però alle 7:30 lo attacco in macchina. Ah, è ok, e vabbè, non so quanto ci rimango, perché non è che ne ho molta voglia, sinceramente, tu lo sai, ormai io mi sono stancato da un po' di tempo, però intanto io mi faccio sentire. Avanti Gabi. Giulio, sì. Piacere sentirti, dai, non ci sono problemi, ti copio bene, forte e chiaro, è tutto positivo. Stavamo parlando con Gianni di operai, di brave persone, di operai, che io mi posso ritenere fortunato perché ho dei collaboratori che sono veramente persone simili. Quello è molto, molto importante, avere a che fare con persone serie che lavorano onestamente, senza fare i lavativi, eccetera. È così che si va avanti nel modo migliore. Vabbè, sono contento per te, Gavi, visto che hai questa compagnia così di manodopera che vanno avanti alla grande. Molto bene. Avanti già. Infatti, è molto importante avere, si lavora anche meglio, quando si lavora per dire in tre è sempre meglio che lavorare da solo, se no ti va tutto addosso a te, se gli altri lavorano poco. Bisogna dividersi il lavoro e passare la giornata, diciamo, lavorativa tranquillamente, invece di addossarsi tutto su uno. È normale che se va diviso il lavoro viene più leggero. Certo che sì, indubbiamente, però alle volte quando trovi dei lavativi, allora quelli conviene lasciarli perdere, è meglio fare tutto da solo. Però quando trovi persone come si deve, gente che ha voglia di veramente lavorare, quelli meritano un 10 l'ore, meritano di essere impiegati in un lavoro che magari tu hai sulle spalle. Va bene, avanti Gabi. Vabbè, questi qua meritano di più di 10 all'ora. Sono persone in gamba che posso ritenere fortunato, ma io li parlo con tutti perché ai giorni d'oggi la situazione è un po' critica. Avete visto una cane travagliando, poi per carità dice ma non è troppo lavoro, vabbè, ma se non sei anche propenso a cercarmi, e se lo trovi fai finta di non averne trovato. Dice ma io ho bisogno, e tu hai bisogno di catena a casa, e tu hai bisogno di catena a casa, non fa nulla e vuole di una gratis. Fidati di me, io sì. Ti ho portato un paio occasionalmente, ma ascolta, guarda che ti servono, ci verresti di 3 giorni con me a fare un lavoro, e quanto mi dai? Va 9, quanto ti do? Io ti do tanto, io ti do 10 euro a ora, no? E tu però quanto vali? Ma io non l'ho mai fatto, allora perché chiedi? Allora, ma tu se non hai mai fatto un lavoro, no? Perché vai a chiedere, almeno dimmi questa cosa qua. Guarda, io non l'ho fatto, però mi interesserebbe sapere quanto guadagno ora, perché sto facendo altro. Però subito quanto mi dai, quanto non mi dai. Non ti lascio senza niente, non ti preoccupare, ti do il tuo te lo do. Però tu quanto vali? E se ti chiedo una 13 mi porti una 10, e ti chiedo una 13, ti chiedo una 13 fissa mi porti il capitale alla gavra già inglese. Ma di cosa siamo capitelli? Oggi lo sappiamo benissimo, soprattutto fra i giovani, come la pensano, per carità, oggi preferiscono starsene così buttati da una parte all'altra, tanto più soprattutto in questi ultimi 2-3 anni, che si prendono magari il reddito di cittadinanza, si prendono, anche se alle volte è una miseria, però preferiscono tenersi la miseria che magari prendere, che so io, uno stipendio intorno ai 1.200, 1.300, 1.400 euro al mese, preferiscono prendersi queste 700 euro, quanto sono di preciso, 780 credo, di reddito di cittadinanza, pur di non fare niente. Purtroppo è così, cosa ci vuoi fare? Pazienza, avanti Gianni. Ehi, allora, grazie di avermi rilanciato, io adesso chiudo. Gianni, se magari ci sei, dopo ci sentiamo, dai. Ciao anche a te Giulio, ci sentiamo dopo, io devo andare, dai, il dovere mi chiama. Ok, ciao Gianni, ci sentiamo alle prossime allora, vai. Avanti Gabri per salutare Gianni. Sì, ciao Gianni, magari dopo cena ci sono, dopo cena sì, se non mi trovo il divano ti avviso già. Se non mi addormento il divano già ci sono. Buona serata e buon tutto Gianni. Va bene. E allora giù, come mi copri? Ma ti copio benissimo, con la radio è bellissima, il segnale è altrettanto importante, per cui non c'è niente da dire. Io tieni in considerazione che un omologato con lo smitter di quelli a LED, per cui il segnale non è che te lo posso dare perfetto, ma comunque dovrebbe essere intorno, io penso, stando e valutando dove si ferma la lancetta, tra i 9,5 e 9,10 dovrebbe essere più o meno quello. Vai Gabi. È positivo, io ti copio con una radio abbastanza chiara, molto comprensibile, è un segnale che va da 9 a 9,5, a picchi positivi. Sto usando l'ICOM adesso, di 737. Ok, sì, è un'ottima radio, Gabi, è la tua voce naturale, perlomeno per come mi ricordo la tua voce, sentendo questa che adesso arriva nell'altoparlante qua, è la tua voce naturale. No, ottima radio, perfetta, no, non c'è problema. Sì, io sto usando sempre i soliti 2 watt, un omologato con 2 watt di potenza, niente di più. Questo è questo uso, avanti Gabi. Sì, già va bene, Giulio, già va bene. Niente, Giulia, oggi sono stanco e giù. Evidentemente è stata una giornata pesante di lavoro per te, ma si sa, chi lavora tutto santo giorno alla sera non è certamente brillantissimo, ad ogni modo, meno male che chi già sei giovane ancora già recuperi in fretta. Basta una giornata, cioè una nottata di sonno, e così all'indomani sei fresco come una rosa. Riprendi? Sì, vabbè, per quello non c'è problema, sì. Domani un altro giorno. Uia. Anche se i dolori già si fanno sentire. Giulio, ti volevo chiedere una cosa. Tu sei falegname, ma quelle frese a mano, hai visto che hanno, dove c'è l'inserto, dove c'è l'inserto che va a lavorare il legno. E io ne ho preso una, della Packerside, che per fare, diciamo, dei lavoretti in opera. E mi trovo un pezzo che va a, nel piatto dove poggia il legno, nel piatto dove poggia il legno. Però seguendo le strutture delle viti, mi dà al contrario, io non riesco a lavorare così. Ma qual è fatto per mettere, fermati, la domanda mia è questa, è fatto per mettere sotto sopra e lavorare tipo combinata? Interrogativo. Sì, anche, tu stai parlando di, del pantografo o di una fresatrice, chiamala così, comunque, pantografo. Sì, e beh certo, la puoi utilizzare sia da banco o portandola per le sue manopole così su un banco, oppure capovolta, certo che sì, è ovvio, con le varie fresette che si mettono, o con i coltelli eccetera, no, che ci sono. Come ce l'hai, di quelli ad avvitare sono le prese che hai tu, oppure di quelli a pinzetta, che vanno messi dentro il mandrino stringe la pinzetta? No, solo la pinzetta che stringe il mandrino. Sì, sì, sì, stringe il mandrino. No, è un fotografo buono. Però, caspita, c'è questa cosa che non riuscivo a capire. E poi ci ho pensato, ma non è che questa qua puoi girarla e ha lo spessore? Perché poi ci ho pensato ed è, ha lo spessore di un centimetro. Questo vuoi vedere, questa cosa qua è una predisposizione per installarla come combinata? Certo che sì, tu ti fai un'applicazione su un piano e la puoi utilizzare anche come topie. Non so se tu conosci la topia dei falegnami, nel piccolo naturalmente perché è una fresatrice, però si può fare da tipo topia, oppure la puoi utilizzare a banco sopra così, non c'è problema, poi con le varie applicazioni ti devi arrangiare, guida, distanziante, la corsa in altezza e lunghezza, tutte queste cose, no? Tutte le applicazioni che si possono fare. Con la fresatrice puoi fare mille applicazioni, puoi forare, puoi mortasare, puoi fare incastri, puoi fare delle guscie, puoi fare dei profilati, dei profili qualsiasi, basta avere le frese adatte, no, non c'è problema. Come sono quelli da 8 mm sono quelle a pinza, oppure da 6 mm le frese che hai. Scusa Giù, non ti ho copiato bene perché non ti ho copiato bene, puoi ripetere se non ti disturba. Ho detto che si può utilizzare sia da banco, la fresatrice si può utilizzare da banco, oppure capovolta come topi, cioè la topi sarebbe una macchina da falegnameria, quella grande naturalmente, però questa essendo piccolina la puoi capovolgere, intanto esistono le varie fresette di qualsiasi profilo e la puoi utilizzare anche diciamo imitando il sistema topi, capito? Sì, ho capito. No, vabbè, io l'ho presa per fare lavoro in opera, così magari serve qualcosa, la si usa. Ciccia. No, le sei frese standard, quella diciamo che fa l'incasso, quella che fa 90 gradi, quella doppia 90 gradi, se non sto sbagliando i tempi, e poi ce ne sono altre che, ma la stavo provando, però gira bene, lavora bene come pantografo questo della Lido. Beh certo che lavorano bene, perché sono macchinette che hanno un numero altissimo di giri, poi più alto è il numero di giri e meglio lavora chiaramente, poi mettendo i coltelli, quelli originali, non quelli che vendono da Bricom ad esempio, ci sono coltelli che sono per così dire fatti di piombo, ma ci sono coltelli professionali comprati nei negozi di ferramenta che valgono, costano e perché costano, oppure te le fai arrivare direttamente da fuori, anche Amazon ce li ha, e poi per quanto riguarda le varie applicazioni, puoi fare dare un'occhiata su YouTube e ci sono mille applicazioni che ti consigliano e puoi fare vedere come quanto genere di applicazioni puoi fare, poi dipende da te, dal tuo istinto, dal tuo modo di saper lavorare, come utilizzarmi, capito? Sì, sì, no, l'ho provata su un pezzo di tavola per vedere un po' com'era, però funziona bene, funziona molto molto bene, ha le velocità da 1 a 7 e ci devo dire che non è male. Perché ce n'era una da Bricome, ma veniva poco e poco aria. Questa qua costa un po', però lavora bene, però lavora molto bene. Cioè, io non sono in grado di dire se una macchina lavora bene perché non ho l'esperienza su vari accessori. Però a quanto sembra, il taglio esce benissimo, il taglio, la fresatura esce benissimo, non lascia segni, non lascia niente, quindi secondo me è una cosa valida. Certo che sì, il taglio dipende, la pulizia del taglio dipende sempre dalla presetta che ci monti. Se hai tu una presetta buona di quelle professionali, il taglio, la sagomatura che devi fare esce perfetta, no? Non ci sono problemi, pulita eccetera, devi solamente appena ritoccarla, ma niente di più, con una carta versata molto ma molto sottile, se non la rovini anche la sagomatura. Mentre invece se metti una presa, diciamo, di quelle che sono fatte di burro, tanto per intenderci, allora magari la sagoma te la fa lo stesso, però esce sporca come lavorazione, allora devi lavorarci molto di più con la carta vetrata. Mentre invece se c'è un tagliente come si deve, allora non c'è bisogno nemmeno di toccarlo, perché basta una spugnetta abrasiva e tu ti a posto, perché hai già il lavoro già ben finito. Guarda, io ti posso dire una cosa, Giulio, che questi tagli che ho fatto gli ho dato giusto una pulitina con lo Scotch Bride, quindi cioè per essere accettabili, non per essere finiti, per essere accettabili, giusto una passatina di Scotch Bride ed sono usciti bellissimi. Sì, e beh certo, evidentemente hai un buon tagliente, certo, ma si sa, ovvio, poi se vuoi lavorare ancora meglio, tu anziché farla direttamente al pieno, naturalmente sempre dipende dal tipo di sagomatura, se è una sagomatura da niente, se è una guscia o un piccolo sbusso, puoi fare direttamente completo, direttamente alla misura che ti occorre. Diversamente lo puoi fare anche in due volte, perché si sa, ripeto, poi dipende soprattutto dalla velocità e dal numero di giri che ha la macchinetta. Di solito sono apparecchiature che hanno intorno a 15.000, 18.000 giri, anche 20, 25.000 giri. Più giri ci sono, perché questo tipo di lavorazione ha bisogno di molta velocità, e quando c'è un buon tagliente il taglio, cioè il lavoro esce pulitissimo, proprio perfetto. Sì, no, questa qua non so quanti giri abbia, però l'ho messa a velocità massima, l'ho provata prima a 3, poi a 4 e poi l'ho messa a palla, alla velocità massima e poi abbastanza, non ha vibrazioni, è proprio bella bella bella, liscia, lavora, e gli ho passato giusto una passata di, gli ho dato giusto un po' di, con lo Scotch Bride per togliergli qualche impurità che ho visto, ma diciamo con l'occhio un pochino clinico, e ha fatto, fa veramente dei bei smussi, molto puliti. L'ho provato, diciamo, su del fenolico che da 2 centimetri, che diciamo che non sia un legno molto finito. Ok, poi c'è anche da vivere anche un'altra cosa, sempre sono tutte esperienze che poi uno si ritrova quando, man mano che lavora, anche lo spingere il pezzo, cioè il trascinamento del pezzo, se tu il pezzo lo spingi troppo velocemente, chiaramente chiaramente la macchina non gli dà il tempo della velocità di taglio, lo più lentamente lo spingi, più pulito te lo fa il lavoro, è ovvio, perché la macchina ha più possibilità di tagliare meglio, ecco, come anche quello, insomma, ma tutte cose che poi quelle le acquisisci con l'esperienza, con il lavoro che fai. Io ad esempio il mio pantografo è un pantografo che ho tantissimi anni, professionale, è ovvio, no? Ma ripeto, oggi ci sono dei pantografi anche di pochissimi soldi che funzionano anche molto bene, dipende sempre dalla velocità che hanno, dal sistema come si utilizzano e soprattutto dal tagliente che uno ci monta per poter avere un ottimo lavoro. Quello che ho io ad esempio mi sembra che a 20.000, 18.000 giri fa il mio, ma è una cosa che io ho tantissimi anni e funziona di una meraviglia, ma veramente bene. Ha fatto tanti di quei mattoni di tenda, perché allora si usava a fare mattoni di tenda da falegname, parlo di tantissimi anni fa, ha fatto chilometri e chilometri e chilometri di mattoni di tenda, tanto per darti un'idea, tutto lo smerletto che fa che c'è nel mattone di tenda, capisci? Sì, io ti parlo della lavorazione a mano libera, Io queste prove le ho fatte a mano libera, su un certo cuscinetto che ti dà quella misura, quindi non l'ho fatto su guida, più o meno ho fatto la stessa velocità, più o meno, però su guida a cuscinetto, sull'inserto. Sì, certo che sì. Ma se tu vuoi lavorare a tipo topi, come ti stavo dicendo, la utilizzi capovolta, ti compri un pannello che so io, 60x60, tanto per fare un esempio, quella te la piazzi al centro, pari al livello del pannello che compri, fissato come si deve naturalmente, e poi ci puoi montare anche una guida e fai dei bei lavoretti, ma veramente belli, senza nessun rischio, senza pericolo, senza niente, perché sì, lo so, ci sono le presette che hanno cuscinetto, più di quel tanto intanto non affonda, però non è detto che devi usare sempre la presetta col cuscinetto, ci sono le presette che non hanno cuscinetto e dunque se appoggi con quella affonda e quello deve stare più attento. Invece prendendoti questo pannello che ti sto dicendo, lo fuori al centro, che quanto è il piano, tanto per fare un esempio, 20x20, ti fa un taglio 20x20, te lo inserisci dentro, pari al legno e poi automaticamente ci metti una guida, ci metti fissata come piace a te, la puoi fare anche in maniera perfetta, oppure te la fermi, che so io, anche con due morsettini, una parte o l'altra, appoggi alla guida e trascini il pezzo e c'è un lavoro perfetto. Sì. A me lavoro in legno già piace, perché è un lavoro che ti porta via, dai, ci vuole anche passione. Adesso con questa attrezzo qua mi farò qualche mensolina per casa, andrò a comprare un pannellino di frassino, magari me li farò tagliare più o meno a misura e con questa attrezzo mi farò delle mensole o qualcosina. Ho intenzione piano piano di farmi un mobiletto, però piano piano, dai, un metro alla volta, vediamo di fare qualcosina. Beh certo, se tu ti compri già dei pannelli già pronti, già puliti, lavorati, eccetera, squadrati, eccetera, e poi li metti, li assembli, magari per fare profili, poi hai la macchinetta che ti consente di fare anche per fare in casa, se deve fare in casa, se deve mettere i perni, tutte queste cose col pantografo, con la presenza si può fare, no, non c'è problema. Ripeto, sempre ci vuole anche, diciamo, tutto sommato un po' di inventiva per chi non è del mestiere. Chi è del mestiere si sa, ci va già direttamente a colpo sicuro, ma uno come te che ha la passione, che ha la macchinetta